al largo di Lampedusa. Vomitavano acqua di mare i miei bambini tombini, ma poi a bordo non volevano morti, così ho buttato i miei bambini morti nel mare, il nostro gommone saltava come una palla sul mare, basta sbarchi, Maroni. Anch'io vorrei essere felice come mio cugino. Allora è arrivata la Pinar di Capitan Asik. Ho visto Dio, Dio c'è, vieni qua, Dio, Asik il turco, che salva i nigeriani rischiando di perdere il posto. Signore degli altri che non ci lasciano entrare.